Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Per il nipotino del professore avvocato Carlo Taormina, ex sottosegretario, deputato di Forza Italia, eccetera, eccetera, avvocato chiacchierato, eccetera, cioè, chiacchierato per i suoi successi barra insuccessi, sennò quello mi fa una testa così, successi barra insuccessi in tribunale. L'avvocato Carlo Taormina però ha aggiunto una cosa, per chi se lo fosse dimenticato, ha aggiunto un dettaglio: è nato un maschio perché temevo fosse omo, capito? A parte, come fa a saperlo a pochi giorni dalla nascita del nipotino se è veramente maschio oppure sarà in futuro omosessuale, gay? Parole al vento della politica. Matteo Colaninno, Partito Democratico. Senti cosa dice di Renzi. È un renziano, Colaninno, per carità. Anche un renziano, credo, della prima ora, se non sbaglio. Però potrei sbagliarmi, magari prima appoggiava qualcun altro, cosa che succede spesso. Ho letto che in Parlamento ci sono stati 235 cambi di casacca dall'inizio della legislatura. Per te sarà tutto normale, per carità. 235 cambi di casacca dall'inizio della legislatura. Colaninno. Non ammettere che oggi Renzi sta compiendo una rivoluzione significa fare semplicemente ridere. Ma Di Luca, candidato in campagna! Significa fare ridere, significa far ridere, perché allora, anche i gatti, se uno va presso un gatto e glielo chiede, si accorgono che si sta cambiando. Allora vi prego, a casa fate questo esperimento. Molte famiglie italiane possiedono un gatto, possiedono un felino in casa. Allora io invito tutti in questo momento, voi che magari siete a casa, siete tantissimi che seguite la zanzara da casa, di chiedere al vostro gatto, inseguirlo per casa, guardarlo negli occhi, il felino con i baffi, magari sorride, magari no, vi punta la zampa contro. Ma secondo te, caro felino, caro gatto, dicono i renziani, davvero il presidente del consiglio Nume Massimo eccetera sta facendo la rivoluzione in Italia? E sentite la risposta del gatto. Giuliano Ferrara sostiene che le intercettazioni sono più vergognose delle tangenti, e su questo potete pure incazzarvi, potete anche incazzarvi. A me le provocazioni piacciono da morire, Ferrara è un genio assoluto da questo punto di vista delle provocazioni, le pippe, detto da noi, pippe, invece dell'aborto fatevi le pippe, cioè... Lo ripeto ancora una volta, fatevi le pippe, perché non si può sopportare il fatto che uno abortisca. Se uno fa l'amore e nasce un figlio, deve per forza farlo questo figlio, deve per forza partorirlo. E dunque l'alternativa sono le pippe, non rischiare. Pippe. E quello pippe, delle pippe. Molte pippe. E quello delle pippe, Ferrara. Dunque, altra provocazione, le intercettazioni sono più vergognose delle tangenti. Le intercettazioni sono una vergogna, non solo perché sputtanano la gente che non c'entra, non solo perché creano questo clima da talk show nazionale. Ma non saranno le tangenti che sono una vergogna? No, le intercettazioni sono molto più vergognose delle più tangenti. Più vergognose le intercettazioni e costano molto di più agli italiani. Le intercettazioni costano più agli italiani delle tangenti, così dice Ferrara. Mi sembra francamente un'esagerazione, caro Giuliano. intercettazioni costano, per carità, qualche volta sono dannose quando vanno a rompere i coglioni alla vita privata delle persone. È una provocazione alla Giuliano, dai. Sì, d'accordo, lo però sa anche lui che non è così, lo sa anche lui. Ma no, lui dice il principio, mentre le tangenti, lui dice, mentre le tangenti in uno stato ci possono stare perché la corruzione è endemica, no? Esiste in tutti gli stati, dunque ce ne dobbiamo fare una ragione, certo si può limitare, cioè, questo è il suo ragionamento, credo di interpretarlo, le intercettazioni che lui reputa illegali, quelli che sputtarono le persone, la pubblicazione, eccetera, eccetera, è lo Stato che le fa. Il ragionamento è questo, dunque sono più vergognose delle tangenti per questo, mentre le tangenti, vabbè, ci sono perché l'uomo è corrotto, in Italia diciamo è super corrotto, appunto, mentre appunto le intercettazioni sono una cosa che è lo Stato, che è fatta dallo Stato, perché i magistrati che le ordinano sono funzionari dello Stato, dunque da questo punto di vista sono più vergognose. No, cerco di interpretare, di trovare qualche ragione in questa provocazione ferrariana, Vabbè, un altro vecchio del giornalismo, della provocazione, come Giampaolo Panza, parla così di Renzi come uno di destra che gli manca ormai andare sul balcone come Mussolini. Chi è il nuovo leader della destra in Italia, Salvini o Matteo Renzi? Ma Renzi. Deve solo imparare a fare i discorsi da un balcone, eh? Poi magari si inventerà pure una divisa speciale. A me non piace. 800 24 00 24, andiamo sulle cose nostre, sulle cose di cui si occupa spesso la Zanzara. Allora, vi dico subito una cosa, questa mattina credo in un programma, non so su che radio, c'è stata un'intervista di Selvaggia Lucarelli alla signora Sara Tommasi, che è stata rilanciata dalla rete. Sapete, le cose vengono rilanciate dalla rete, le cose rilanciate dalla rete non è detto che poi interessino la gente, cioè interessano un gruppo ristretto di persone che sta sulla rete. Io non lo dico con disprezzo. Ma chi lavora non è che ha tempo di guardare tutti i giorni Twitter, Facebook. Esatto, vabbè, viene rilanciata molto. La signora Tommasi ha annunciato, non sta bene, ha annunciato qualche giorno fa di volersi sposare con il mitologico Di Pre, anche qua un personaggio su Twitter molto conosciuto, uno che faceva l'avvocato, poi si è messo a intervistare pornostar, è completamente fuori di testa, eccetera. I due fuori di testa, entrambi, la signora Tommasi e il signor Di Pre, si vogliono sposare. Cioè Lucarelli ha chiamato la signora Tommasi, è venuto fuori questa cosa che mi riguarda. Io la mando in onda perché non ho problemi, tanto la gente l'ha già ascoltata, quelli che sono su internet, non la grande massa, l'hanno già ascoltata. Riguarda anche il sottoscritto, io me ne fotto di tutte le considerazioni che sono state fatte, trattasi di follie allo stato puro. Comunque sentiamo. Sara, ma è vera questa cosa di Pre? Sì. Cioè vi sposate? Il 24 maggio a Vegas. Ma t'ha convinto Di Pre a fare sta cosa o è una cosa che vuoi tu? Sì. T'ha convinto lui? Sì. Non puoi trovare di meglio, Sara? Sì. Beh, dopo mi lascio e mi metto con Cruciani, per esempio. Beh, ho detto di meglio, Sara. Cioè, la parabola deve andare in su, non in giù. Si può confermare tutto. Chi, Giuseppe? Adesso mi impadronirò di R24 lì, che sta a Roma, casa Roma, è tutto collegato. Cioè, praticamente tramite Cruciani. Mi sposo con Cruciani. Ti sposi con Cruciani? Beh, vabbè, allora a sto punto meglio Di Pre. Senti una cosa, Sara. Tu devi scegliere. Con me Cruciani. No, preferisco vivere. Vabbè, tralascio le considerazioni personali perché me ne sbatto e non è questo il punto. Allora, però posso dire una cosa abbastanza seria su questo. Allora, io ho avuto una lunga, più volte ho intervistato Sara Tommasi recentemente, siccome mi manda 45 messaggi al giorno, ma li manda a 200 persone in contemporanea, perché altre persone mi dicono, sai che Sara Tommasi oggi mi ha mandato una foto, fai vedere quale, è uguale, dunque le manda a 200 persone in contemporanea, spesso foto nude di lei nuda. A me non le manda, per fortuna. Vabbè, a te no, perché vivi nel tuo mondo dell'intellettualità, dello snobismo, no, romano, dunque. Perché no, non va benissimo. Il mio numero, per ma non è il tuo numero perché non ti sporchi le mani con queste cose. Però no, il punto vai, è un altro. Vabbè, lasciamo vai perdere. Però il punto è un altro. Io dico una cosa, ho registrato una ventina di minuti di intervista prima con Sara Tommasi, era presente anche Parenzo, era questa intervista che non ha detto una parola, era quasi schifato. No, allora, ero dispiaciuto. Dispiaciuto, per lei, ma anch'io sono dispiaciuto. Ora, la ragazza, sta male, ma chi la intervista sapendo anche prima? Perché non è che non si sa prima che sta male, soprattutto chi l'ha intervistata, abbiamo sentito prima, sa benissimo che sta male, per poi dire vi mando in onda questa intervista così dimostro che sta male. Ma di che parliamo? Ma perché vi fate pigliare per il culo così? Cioè, sta male e se le vuoi bene non la intervisti, se dici di volerla bene non la intervisti. perché altrimenti se poi mandi l'intervista sei... vabbè, lasciamo perdere. Il punto è questo: chi intervista oggi Sara Tommasi è peggio di Sara Tommasi, perché sa benissimo come sta. Sa benissimo come sta, che sta male, perché è una ragazza che ha bisogno di cure. Certo, una ragazza molto. Che ha bisogno di cure. Immediate, lo sai, no? Anche prima, e se la intervisti col giochetto di intervistiamo così facciamo in modo di far sapere, cioè il gioco è questo, cioè il gioco è questo, ragazzi, cioè è una follia totale, totale. Ma noi, per carità, tante volte abbiamo intervistato persone pazze, ma non fino al punto, perché poi fai male. Vabbè. Pazze, ma per quel che dicono, non perché hanno dei ma problemi. Ma sì, ma è una persona che ha dei problemi, chiaro, ma non c'è bisogno di intervistarla per dimostrarlo. No, voglio dire, un conto è Mandarà, che io considero Mandarà tecnicamente pazzo. Ragazzi, Mandarà. Io mando in onda qualsiasi cosa, però io posso pure mandare in onda 20 minuti, probabilmente vi spisciereste tutti dalle risate, dillo Parenzo, dillo, vi ammazzereste dalle risate. No, ma perché ha dei tratti surreali questa intervista che ho fatto. Sì, però il surrealismo, ma è una follia, ma è surreale, perché è malata. Il surrealismo è quello di Mandarà con una che sta male, invece non è surrealismo. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Allora, abbiamo con noi Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ciao. Come stai? Come stai? Conosci la situazione psichiatrica della signora Tommasi? Beh, non direttamente, ma mi sembra una ragazza bisogno di aiuto. Senza ombra di dubbio. Va intervistata? Ma ritengo di no, forse avrebbe bisogno di fare dei colloqui con un terapeuta o con uno psichiatra, ma non di essere intervistata alla radio sicuramente. Guarda, io ovviamente ho intervistato... Diamo il suo numero così le puoi fare una consulenza. No, non è quello il modo giusto. Io per aiutarla, davvero, te lo dico. Io ho intervistato i peggiori pazzi furiosi, persone che sono sotto cura psichiatrica e persone che sbarellano totalmente, non sono neppure divertenti. Cioè, è quello il punto, perché non... Tradiscono soltanto sofferenza, l'umorismo sta... Allora, utilizzare il giochetto, ma lo dico anche con affetto per chi ha fatto quell'intervista, per carità, non me ne frega niente, utilizzare il giochetto dell'intervista messa là per dire ecco la prova che sta male, ma che c'è bisogno di quello per sapere che sta male? Ce lo sa tutto il mondo. È una piccola grande crudeltà. Cioè, ma io poi non parlo meno di crudeltà, è proprio una cosa piccina, dice eccomi qui, c'è bisogno di farsi notare in questo modo, mandando in onda interviste di fuori di testa in questo... Ma vabbè, io intervisto i peggiori fuori di testa, ma con la loro consapevolezza, no? Cioè, persone un minimo consapevoli, non persone sotto... Una cosa è l'estrosità, è avere un pensiero divergente, un'altra è essere sofferente, sono due cose radicalmente diverse. Vabbè, ma la questione che ti volevo chiedere è quella di Angelina Jolie, la quale ha scelto di togliersi tutto dopo il seno eccetera, che si è rifatto ovviamente perché ha anche un po' di soldi, senza ovaie contro il cancro. Mi sembra che tu sei molto critico con questa decisione, ma o sbaglio? Io penso questo. Allora, io intanto partirei da una considerazione generale, che vivere fa morire e non si esce vivi dalla vita, questa è una la cioè prima come vivere fa che tu dici in generale vivere fa morire, vivi, cioè prima o poi di qualcosa bisogna accettare, dici, bisogna accettare l'idea che c'è la morte. Questa fissazione che adesso sta dilagando dei test genetici che devono servire a farci capire con precisione di che cosa ci ammaleremo anche senza avere una terapia né disponibile né forse utile, è un'idea bizzarra, perché vedi, io posso decidere che ho una predisposizione al tumore delle ovaie e togliermi le ovaie, togliere il seno, potrei pensare che può venirmi un seminoma, allora mi tolgo i testicoli, però se io mi tolgo uno dei due polmoni forse avrò la metà della possibilità di avere un cancro al polmone. Però questa specie di bionica, cioè io dici mi tolgo le palle, e alla fine sono sicuro che non mi verrà un seminoma. Vabbè, d'accordo, però ci sono dei test che ti dicono che se ma tu ma che... sono test la cui attendibilità intanto è abbastanza discutibile, ma al di là di questo c'è un principio di carattere generale. Questa visione metà ipocondria che metà bionica dell'uomo mi rattrista. Cioè io posso anche farmi tagliare le gambe e mettere delle bellissime protesi meccaniche. Vabbè, e sapere ma questa... così non avrò mai più un dolore. No, questa è una bella provocazione, Alessandro, però ti dico una cosa, ti dico che se uno sa, come Angelina, e ha i soldi per farlo, adesso non so se in America queste cose sono pagate, ma non credo che siano pagate, l'ha pagate lei ovviamente, in Italia magari possono anche essere pagate dal pubblico. Io sono netto, prima di ogni altro valore la libertà terapeutica. Ho capito, allora ognuno non rompete le balle, te lo dico con sincerità. Ognuno fa tutto quello non che non rompete le balle alla Jolie se si fa tagliare il seno, se si fa tagliare tagliare le ovaie, se si sradica tutta la figa, per non avere problemi in futuro con un cancro che le può arrivare. Io non rompo le balle a nessuno. Ma no, la libertà terapeutica prima di ogni cosa. Ognuno fa col suo però corpo. Non ti piace, però non ti piace questa roba. Però devo dire quello che penso. Devo dire che io, per pensando a me, preferisco pensare di vivere da sano per morire malato, piuttosto che vivere tutta la vita da malato per morire sano, perché c'è una certa concezione. Cioè, tu preferisci no, veramente preferisci ammalarti? Preferisco vivere da sano per poi ammalarmi e morire quando questo succederà, piuttosto che passare tutta la vita da malato pensando di non morire mai, che tanto non succede. Quindi c'è una visione, come dire, terroristica della prevenzione secondaria che non riflette neanche la salute. E sai chi l'ha dimostrata questa cosa qui? Le grandi compagnie assicurative americane, che quando hanno voluto provare ad abbattere i costi dei premi, convincendo i loro clienti a fare dei check-up generali ogni anno, anche genetici, pensando che questo avrebbe allungato loro la vita, ha visto che i premi non diminuivano perché la vita non si allungava. Questa è una cosa che contrasta con la teoria della giurisprudenza. Dopodiché ognuno col suo corpo fa quello che vuole, si può togliere i testicoli, le ovaie, il seno, le mani, ma non contrasta per niente in realtà. Cioè, tu che sei un uomo di scienza, perché sei uno psichiatra, certo, dovresti essere il primo a dire ringrazio la scienza, la tecnica. Tutto, ma io non dico mica non debba essere fatta la prevenzione. No, che ci dico permette soltanto, anche di prevenire il male. Io dico soltanto perché la vita si è allungata. È una concezione della prevenzione anche sbagliata, ma questo ve lo spiegherebbero anche gli epidemiologi seri. Poi c'è un consumismo della sanità di tutte le cose. Come c'è il consumismo dei farmaci. Scusami, se la scienza ci dà la possibilità, attraverso test di sapere, e uno ha i soldi per farlo, soprattutto in America, di sapere se ci sono delle alte probabilità di ammalarsi di questo, e tu ti vuoi asportare tutto. Io mica detto che la Jolie abbia fatto qualcosa di riprovevole. Ognuno con le sue ovaie fa quello che vuole. Se io mi taglio il naso, sicuramente avrò meno probabilità di avere un tumore, un basalioma delle cellule del naso. Cioè, va tutto bene. Più pezzi togliamo, meno probabilità abbiamo che quell'organismo, quel pezzo d'organismo si ammali. È fuori di dubbio. Capito? Però mi permetto di dire che c'è un aspetto estetico delle cose e anche una certa visione della vita che, vuol dire, io trovo malinconica, dove ognuno con suo corpo fa tutto quello che vuole, È libero di farsi operare. Sì, ho capito. Grazie, ciao Alessandro, prego, ciao, prego, grazie, ciao, ciao. Come? Sei il re della radio, Dio, se qualcuno parla di te male, lo ammazzo, Dio, sei il re. Allora andiamo con Crozza e Salvini. Io sto con i milanesi per bene, quelli che parlano la nostra lingua, quelli che conoscono le nostre tradizioni. Ti chiami Brambilla, mangi l'ossobuco, va bene, puoi restare, sono il tuo sindaco. Ti chiami Perego, parcheggi il SUV in doppia fila occupando la pista ciclabile, va bene, puoi restare, sono il tuo sindaco. Ti chiami Aziz, lavori a Milano da 40 anni, paghi le tasse, non dai fastidio a nessuno, sbagliato, dai fastidio a me, via aria, Fera de Val. Allora, caro David, ti faccio sentire adesso quello che dice il nostro amico Mandarà, che si è scatenato sulla Jolie. Ti assicuro che è una follia totale. Cioè, il nostro amico Salvo Mandarà si è scatenato sulla questione di Angelina Jolie. Non ma so è perché. Ricoverato all'ospedale? No, ma è impazzito improvvisamente. Ma era in un momento tra una visita e l'altra, si vede. Improvvisamente impazzito. Senti. A 2 anni di distanza, dopo essersi fatta rimuovere entrambe le mammelle, Angelina Jolie, la famosa e stupenda attrice, decide di farsi rimuovere anche le ovaie. Questa signora, questa ragazza, perché voglio dire, ha 39 anni, per me è ancora una ragazza, gli ha preso così. forse vuole essere posizionata all'IKEA, quindi si sta facendo smontare a un pezzettino alla volta, prima le mammelle, adesso le ovaie, magari la prossima volta per paura del cancro si farà togliere anche il cervello, così ha risolto il problema alla base. Quindi vuole finire forse su qualche banco dell'IKEA, in modo che tutti noi possiamo andare lì, prenderla a pezzettini, ce la portiamo a casa e ce la montiamo. E dai, ditemi la verità, chi di voi non vorrebbe portarsi a casa la Jolie per montarsela? Vai, TG3, vai! And now, the headlines, news, channel 3. E adesso, i titoli del TG3. La scatola nera dell'Airbus non scioglie il mistero, gli esperti ci vorranno mesi e nessuna ipotesi esclusa, l'aereo sulla rotta prevista, integro, fino all'impatto. Tre paesi uniti dalla tragedia, il dolore di Hollande, Merkel e Rajoy insieme sul luogo del disastro, i ragazzi tedeschi sull'aereo perché avevano vinto il viaggio. La tragedia ripropone il problema sicurezza dei voli low cost, tariffe all'osso, piloti giovani ma controlli e manutenzione secondo le regole europee. Al Senato la legge anticorruzione, prossima settimana il voto, Grasso, troppi rinvii, finalmente in aula, l'NCD insiste, modifica sulla prescrizione. Omicidio Meredith, verdetto della Cassazione slitta venerdì, per il procuratore generale, sollecito e Amanda colpevoli, chiede la conferma delle condanne. Scoperta una cellula ISIS in Italia, presi due albanesi che avrebbero reclutato terroristi, a Tunisi arrestata la mente dell'attacco al museo. Arriva nelle sale la famiglia Bélier, film francese record incassi che racconta la storia di una famiglia di sordomuti con una figlia dalla voce straordinaria. Tapiro a Rocco Siffredi. Ma amici di Striscia, noi questa sera abbiamo l'opportunità di premiare due partecipanti all'isola, Rocco e suo Tapiro, e Tapiro per suo fratello. Questo è per lei. Rocco, questo è per te, vedi. Adesso, siccome l'ho messo in pensione, lo prende la signora. Allora vabbè, continua a dire Rocco che non farà più i porno, sono pulito, sono rinato, l'Isola dei Famosi lo ha curato da questa ossessione per il sesso. Adesso la mia previsione è questa: passerà un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi? No. Passeranno sei mesi. Intanto c'è Luciano Moggi dietro al vetro che mi sta sventolando un fazzoletto. C'è Luciano Moggi dietro al vetro. Il vero Moggi? Sì, il vero, sì, il vero, l'originale, che mi sta sventolando un fazzoletto bianco. Ma perché è venuto? Non è che alza bandiera bianca, non credo, anzi dovrebbe. Cioè, è venuto lì a festeggiare, è venuto. Ma sì, a festeggiare, che c'è da festeggiare? Dopo tanti anni che c'è da festeggiare ormai. Non c'è niente da festeggiare, sì, certo, non è stato condannato, è stato prescritto. Vabbè, poi ne parliamo. Siffredi, porno out, sono pulito, Rina. Io non ci credo, fra un mese. Occhio solo che non chiuda qualche tecnico in bagno. Ah, tu dici potrebbe chiudere qualche tecnico della radio in bagno. Adesso si incazza. Ma non vorrei chiudesse qualche tecnico in bagno. No, che non si arrabbia. Ma anche quella roba lì, poi è stato provato che non era così, non è chiuso nessuno. Lucianone. Non mi toccate Moggi a me, non mi dovete toccare. Lucianone, ho detto. Vabbè, Siffredi, dai. Ma è vero che darà l'addio al porno? Eh? Vero? No, è 100 per 1000, 1000 per 1000, 10.000 per 10.000, it's out. Quindi, e chi sarà il suo erede? Successore, su cazzo. Abbiamo chiesto alla mia moglie. Io sempre che è l'ultimo samurai. Ma perché lui poi fa finta, sta un po' là e poi dopo non ce la fa e ritorna per forza. Basta, questa esperienza mi ha pulito, rinnovato, sono rinato. Bah. Evidentemente la malattia è arrivata a un tale punto, cioè l'ossessione del sesso è arrivata a un tale punto, Parenzo, che a un certo punto uno ha bisogno dell'Isola dei Famosi per ripulirsi. Io non ci credo, uno potrebbe andare in una clinica, cioè non è che l'Isola dei Famosi ti guarisce dall'ossessione sessuale. No. Allora, senti la provocazione di Barani, del nostro amico Barani socialista: chiunque compia talune dei reati di cui è il precedente articolo, cioè la corruzione contro la pubblica amministrazione, chiunque verrà punito con la fucilazione da svolgersi pubblicamente nella piazza piazza principale della città, ove ha sede il tribunale competente per territorio. Allora, l'amico Barani, che è un vecchio socialista craxiano, di quelli irriducibili, figuriamoci se è a favore della fucilazione per i corrotti. Non è a favore della fucilazione per i corrotti, e provoca, certo, stendere in un disegno di legge che ci vuole la fucilazione per i corrotti ti fa arrivare in prima pagina, no? Barani, fucilazione per i corrotti. Poi lui aggiunge: no, però senza la morte del reo. Allora che fucilazione è? Cioè, è una provocazione da parte del signor Barani. Eppure vedrete che domani se ne parlerà ovunque. Proposta shock del senatore Barani, che tutto pensa tranne a fucilare i corrotti, perché lo conosco. Anzi, al contrario, c'è uno di quelli che ha difeso Craxi fino alla fine, eccetera, eccetera. Marco da Milano, vai Marco. Sì, buonasera. Allora, vai. Vorrei consigliare al Meluzzi di ritornare un attimino all'università sui libri di oncologia. Perché? Perché non che si possono sentire le stronzate che ha detto. È meglio che faccia lo psichiatra anche su quello dei miei. Ma perché? Punti. Che ha detto? Allora, spiegami, che ha detto? Angelina ha detto una cosa gravissima. Angelina cioè? Jolie ha una mutazione genica tale per cui ha un altissimo rischio rispetto alla popolazione. Sì, è vero, che è vero, non ha vero. Ecco, di manifestare e il tumore della mammella e il tumore dell'ovaio. Dire pubblicamente che ha fatto una stronzata a togliersi prima le mammelle e adesso l'ovaio, e dire soprattutto vabbè, ma allora mi tolgo il naso perché così non mi viene. Ma infatti è una stupidaggine, ma gliel'ho detto, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole. Se uno vuole asportarsi i testicoli perché pensa che tra 30 anni avrà un tumore alla prostata o quello che è, ma lo faccia pure, a suo rischio e pericolo. Cioè, uno deve essere libero di fare quello che vuole o no. L'Angelina Jolie si è sottoposta a 1000 interventi perché pensa di avere un cancro, se lo può permettere perché in America queste cose costano, e fateglielo fare. Qual è la polemica? La manipolazione cosa? Non è che costruisce un robot, si asporta, non è che una passeggiata, uno va in ospedale e si asporta delle robe, non è una passeggiata, se lo può permettere perché in America queste cose costano. Cioè, di cosa stiamo parlando? Oggi l'amico Adinolfi, non so dove, sulla croce, o qualcuno per lui ha scritto una cosa terribile, la manipolazione dell'uomo. Non c'è nessuna manipolazione. Va bene, ma stai parlando della croce però. Vabbè, la croce. Cioè, mettiamoci una croce sopra, rivedete. Vabbè, grazie, Lorenzo, vai, Milano, vai, Lorenzo, croce, dimmi, no. Lorenzo, anzi no, ovvio. Voglio sentire prima Luca da Padova, l'amico Luca da Padova, dai Luca da Padova, così per introdurre un argomentino. Luca, vai. Sì, Giuseppe, ciao. No, ma tu sei col viva voce, dunque io non ti voglio sentire, Luca, col viva voce. O metti ti togli l'auricolare, quello che è, oppure non ti voglio sentire. Dai, dimmi. Allora, intanto io sono tra i tantissimi che ti ascoltano quasi ogni sera, ti devo dire una cosa, Giuseppe. Dimmi, caro. Beppi. Sì. Sei un mito. Vabbè, dai, sei non mi mito. Interessano queste cose. No, a me i complimenti non mi piacciono, fare... dai, no, su. No, io voglio fare un Beppi Cruciani fan club. Vabbè, ma ce ne sono già diversi, non ti preoccupare, non c'è bisogno di uno in più. Ti dico di più, non condivido quasi niente di quello che dici, perché sei senza valori. Però sono senza valori, no, sono semplicemente un cinico pazzesco, questo è il punto. Sì, è vero, perché non ho più alcun, cioè, rispetto alla legge, ma non credo più a nessuno. Vabbè, allora volevo dirti una cosa. Ieri hai detto una cosa che è giusta. Qual è? E così ti aiuto a cambiare discorso. Dimmi. Che bisogna pagare le tasse, perché se domani mattina... quello mi pare normale, non ho detto una cosa giusto. Così rivoluzionaria, no. Proprio ieri ho letto che hanno alzato di 4 mesi ulteriori i requisiti per andare in pensione di vecchiaia. Si va a 36 anni e 7 mesi. Meglio. Vero? Meglio sto par di palle. No, meglio, bisogna andare in pensione tardi, bisogna lavorare il più possibile, lavorare per pagare le tasse a sti 4 bifolchi che vabbè, ma che c'entra? Quello è un altro discorso, che le tasse vadano abbassate è una cosa, che uno debba andare in pensione. Ragazzi, bisogna lavorare tanto, bisogna arrivare alla pensione il più in là possibile, perché ma altrimenti io sono disposto, Giuseppe. E allora qual è il problema? Tanto. Qual è il problema? A me va bene lavorare. Ma scusa, poi non volevi parlare di Juventus tu? Sì, ma ancora ieri sera, ma la Juve ormai ha rotto le palle, la Juve, basta. Vabbè, ma che vuol dire? Sì, Juve ha rotto le palle. Ieri sera sono stato mezz'ora al telefono, non mi richiamate mai. Cioè, voi capite? Voi capite qual è il punto? Cioè, Luciano Moggi dice che non vuole mettersi le cuffie qui con noi in studio, non vuole mettere... Buonasera innanzitutto. Buonasera. Ed è il vero Moggi, non è il finto Moggi, che oggi non c'è, tra l'altro, perché è rimasto a Vinitaly. Cioè, è il vero in carne e ossa che ieri lo è stato... Lo posso giurare. Lo giuri, Luciano? Lo giuro. Allora, il mondo si divide in due in Italia, quelli che amano Moggi e quelli che lo odiano. Cioè, tutti gli juventini, diciamo, il 90%... Quanti juventini ti amano? Tanti. 90%. Quasi tutti. 100% dai, 100% dei juventini. Cioè, tu per loro saresti il presidente onorario della Juventus, o no? Diciamo sì. Sì, va bene, per loro sì. Per ma loro. Tu pure lo vorresti fare prima o poi? Sarebbe una tua ambizione, presidente onorario? Ma io non che non conti fare più un cazzo, però. No, però i presidenti onorari. No. Vabbè, vuoi tornare nel calcio o no? Dopo sì, questa cosa. Certo, certo. E a fare certo. Che? A fare che adesso divertirmi, perché io mi sono divertito facendo le squadre. Cioè, facendo i giocatori, sì, facendo i giocatori, capito? Parenzo. Subuteo. Ma chi è Parenzo? È Parenzo con la caro Moggi. Come stai? No, no, scusami, perché mi senti lontano, perché qualcuno mi ha chiuso in bagno. È furbo. Ma non è lui stavolta. Però non sei stato tu, perché io sono a Bergamo e invece tu sei a Milano. Lo vedi che questo vizio non ce l'ho solo io. M'hanno chiuso in bagno. Però lo sai chiuso. Qual è il problema? Adesso, quando siamo andati in Cassazione, sì, il pubblico, il PG, sai cosa ha detto? Che non è vero che io ho chiuso in bagno stanzino Paparesta. No. L'ho minacciato e sono stato punito per quello, ma io le querele di Paparesta non l'ho avute. Quindi... magari c'aveva paura di querelarti. No, cioè, no, che aveva paura di querelarmi, no, no. Beh, assolutamente, comunque... probabilmente aveva paura di quello che aveva fatto. Come aveva paura comunque, di quello che aveva fatto? Ma ci ha fatto perdere la partita. Ma come ci si sente ad essere innocenti come un uccellino proprio? No, ma io non ci aspetta, aspetta. Molti dicono, anche qui, cioè, si è sviluppato un grande dibattito, no? Perché c'è stata la prescrizione, poi c'è stata la relazione. No, no, no, fermo. Beh, tu adesso devi spiegare alle persone, no, vabbè, la prescrizione. No, no, è importante. Ma la prescrizione, mica ho detto che sei colpevole, ho detto che sei prescritto. Cioè, alla fine è innocente. E la prescrizione è innocenza, e la prescrizione si dà, la danno i giudici. Quando è passato, non c'è il tempo di poter sa. Giudicare me lo devi insegnare a me, lo so cos'è la prescrizione. No, ma lo dobbiamo spiegare a chi ci sente. No, ma lo sanno. Perché Parenzo non lo sa. No, Parenzo lo sa. No, io lo so. Parenzo lo sa benissimo. Allora mi sono sbagliato io. No, dai. Il punto è questo. La prescrizione. Molti dicono però che la prescrizione solamente perché è passato del tempo, altrimenti sarebbe stata confermata la sentenza d'appello. Molti dicono, anche il procuratore generale della Cassazione che tu hai citato, ha detto che c'era l'associazione a delinquere, eccetera, eccetera. Poi alcuni reati come la frode sportiva, per esempio, sei stato assolto. Sì, ma scusa, l'associazione a delinquere da chi è formata? Da noi più un arbitro. No, più da noi eravamo 4-5, non mi ricordo. No, arbitro. No. Come sfondi una porta aperta? Ma qua l'associazione a delinquere? Io, posta, io sono sempre stato convinto che non ci fosse nulla. Però dopodiché è arrivata la prescrizione e non la soluzione. La prescrizione e non la soluzione. Neppure la colpevolezza. E neppure la colpevolezza. Dunque puoi fare tutti. O no, lo fai così o no. Infatti, parafrasando quello che disse una volta il Marchese del Grillo, sì, io sono io, gli altri sono tutti... stereo. No, gli altri non sono un cazzo, disse quasi così. Tu io hai fatto così, hai reagito così, sì, io so io, sì, e gli altri non sono un cazzo. Hai fatto così alla notizia, hai fatto detto di te, tiè, prendetevelo tutti in quel sì, posto. Sì, ma non mi sono fatto vedere. Non ti sei mi sono educato. Hai fatto... Ma il primo a cui hai fatto così, chi è? Il primo che ti è venuto in mente nel momento in cui è stata, a parte che lo sapevi questa cosa della prescrizione, quando è stata decisa la prescrizione, che tu sapevi chiaramente, perché già era tempo. No, che... ma io non faccio gestacci. No, però... gestacci, dentro di te, la prima persona a cui hai pensato chi è? Il sindaco di Montesano e Narducci. Il sindaco, ricordaci un po', Narducci era quello che ha fatto l'inchiesta all'inizio, sì, no? Il PM sì. dell'inchiesta il all'inizio. Di Montesano che l'ha ospitato al paese mio a fare una conferenza stampa. Vergogna, vergogna. Tu dici, vergogna, al paese di Moggi ospiti Narducci. Ostia. Però Narducci può dire, io il risultato l'ho ottenuto, in Cassazione questo ha preso 2 anni e 4 mesi, quello che no, è, scusa, in appello. E poi è passato solo il tempo, solo la lunghezza della... E chi l'ha fatto passare? E che ne so, anche tu e i tuoi difensori, no, è normale. No, te lo dico io chi l'ha fatto passare, e l'hanno fatto passare loro, perché noi avevamo 150 testi da escutere, solo 24 ne abbiamo fatti escutere. No, li hanno ammessi solo 24. No, no, no, no, solo 24 abbiamo rinunciato noi per rendere più snello il processo, per non farlo arrivare alla prescrizione. Loro hanno invece ricusato 2 volte il presidente del primo ordinario. Tu come la metti? 7-8 mesi di tempo. Puoi sempre chiedere di essere giudicato, se vuoi. Ma non potevi anche rinunciare alla prescrizione? Non perché... potevo rinunciare alla prescrizione perché alla fine dell'appello non ero prescritto. Ma scusa, adesso oggi... no, adesso puoi rinunciare alla prescrizione? Ma bellissimo. Adesso è finito tutto. Ma che poi gli frega, oggi... ha fatto tie a tutti. Ha fatto tie. Ha fatto il gesto dell'ombrello a tutti. Parenzo. Che gli frega, lui prescritto, innocente. Innocente. Eccetera. No, innocente sì. No, prescritto. Ti senti prescritto o innocente? Questo è pure. Innocente. Innocente. La prescrizione è una cosa formale, sì, una cosa tecnica. Che praticamente in 9 anni non sono riuscito a provare la colpevolezza, ma hanno provato una cosa importante. Però gli hai fatto gli ho fatto un mazzo così. Perché però tu ti sei difeso nel processo. Qualcun altro, per esempio, ti senti perseguitato come Berlusconi, per esempio? Tu? Ma no, un po' sì, perseguitato come Berlusconi. Io so come te. La vita non la prendiamo per il verso giusto, non ci smontano. Ma non ci smontano. Ma non ci smontano. Te potevi ammalare per sta roba qua. Ma tu sei malato. C'è gente che si è ammalata. Quello sì, quello mi dispiace. Per la giustizia la gente si è ammalata. Uno è scardina, ma ce ne sono anche di gambe. Che ha fatto? Si è ammalato, signor Scardini? Sì, la malattia del cervello. È un giornalista della Rai. E poi anche arbitri. Questo mi dispiace. La Gazzetta dello Sport però oggi? Tieni presente una cosa. Dimmi. Che nel momento in cui noi abbiamo detto rinunciamo ai testi per fare più snello, tutti zitti, e poi dopo due. Vabbè, queste sono tecnicalità del processo che adesso non è che ci interessa molto. La cosa fondamentale è che si è arrivati alla prescrizione. Qualcuno dice: vabbè, però è tutto confermato. Cioè, no. C'era l'associazione a delinquere. Il giudizio su Moggi. Beh, oggi leggo tutti i giornali e dicono che Calciopoli è esistita. Sia Palombo sulla Gazzetta dello Sport. Sì, ma con Palombo io ci ho parlato oggi. L'hai mandato a fare oggi, il culo, no? Tramite radio ho detto: ma chiamate anche Colombo, così facciamo Palombo, un dialogo. Palombo. Facciamo vabbè, però un dialogo. Diventa lunga. Ho capito, però ha lui detto: Calciopoli è esistita. No, sì, l'ha scritto: sono quelli che si nascondono dietro la penna. Perché? Perché non hanno il coraggio di affrontarti, io infatti con scritto, un faccia a faccia. Dici. Bravo. Io ho scritto oggi sul giornale, sul Libero. Ho scritto che io sono disponibile al dibattito domani mattina. Ma questo quanti. Tu con tutto, con tutti l'hai sempre. No, hai stretto la mano pure a Moratti. No, ho stretto la mano a Moratti, ma è gentile, mi ha dato la mano. Io, siccome mi hanno insegnato l'educazione a casa mia, Beppe, mi hanno insegnato l'educazione. Ma subito dopo hai scritto una cosa su Twitter tremenda. Ma dice... quella è una battuta, dai. Ma come una battuta? Ma hai una detto battuta. Che te la sei lavata subito dopo ma la mano. Ma sì, ma non è mica vero. È non vero no? Ma non c'erano i bagni lì. Se no te la saresti lavata. No. Ma hai detto pure che era stato un tuo collaboratore a scrivere quella roba, che non eri stato, sei stato tu no, a scrivere. No, la verità è che non è, ho fatto una battuta. Hai sbagliato, ti sei pentito, una cazzata. Una battuta, se vogliamo, come è stata presa in giro, anche sgradevole. Se dunque ti sei pentito di aver scritto no, quella cosa? No, pentito no, ma le battute... Io e te siamo nati per fare le battute, sì, per no, vivere è vero, la vita, e allora... se poi ci prendono sul serio, ma quella, anche quella storia famosa di quel contratto con l'Inter di Moratti, no? Ce l'hai ancora sto contratto? Sì, tu? Come no? Cioè, perché non lo fai vedere prima o ma poi? Ma a chi interessa? Cioè, tu avevi un contratto scritto con l'Inter di Moratti per andare da ce Moratti? No, io ce l'hai, dove l'hai conservato? A casa. Perché non lo fai vedere ogni tanto così? Moratti mi attacca, eccomi, invece prima mi voleva, eccomi, eccolo qui, mi considerava il numero uno. Guarda, Moratti. Se vogliamo dire la verità, non è lui che attaccava, chi è? Era chi per lui. Facchetti, dici? Sì. Vabbè, poveraccio. Adesso lunedì abbiamo una causa del figlio di Facchetti. Ti sì, invito, in tribunale. Ti invito sì. anche a venire. No, ti per carità, i tribunali a me mi mettono tristezza. Ah, no, non è vero. Guarda, devo lo andare già che, domani al tribunale. Ma lo sai che io sentirò la mancanza dei tribunali? È tanto che mi sono affezionato. Ti sei affezionato ai tribunali? Ma non ti preoccupare, tanto ci tornerai presto. Secondo me. Bravo, Lorenzo. Senti una cosa. Non ti preoccupare. Senti, oggi, caro Luciano, il presidente della Federcalcio. Ma scusami un attimo, voglio chiedere una cosa a Lucianone. Ma sei pronto adesso per fare la lista Forza Moggi? Beh, bellissimo. Guarda, se facessi una lista io vengo letto subito. Forza Moggi, quanti voti prenderebbe Forza Moggi? Come minimo 10 milioni. No, 10 milioni. No, quanti soldi fossi della Juventus? Vabbè, ho capito. Beh, però un milione di voti li pigli, sicuro. Forza Moggi. Un milione, ma poco, sai, guarda, troppo poco. Ma di più. Ma seriamente, ci hai mai pensato? Ma io no, Parenzo, non ci ho mai pensato, perché a me la politica non piace molto. La Renzi ti piace, però. Renzi mi piace. Ti Renzi piace? È un toscano come me, quindi battute pronte, grande showman. Sì, o no? È vero. Sì, sì. Per cui lo potresti, Renzi? Ma ora non mi fa parlare di politica, ti piace, però lo voteresti? Sì, no, allora Renzi a me piace, sì. Ma mi piace come politico. Come politico, anche te devi piacere come resto, uomo. A te ti piace. Tu se c'è una cosa che non ti piacciono, sei venuto in compagnia di una bellissima ragazza, cioè che è una tra vari collaboratori che ci sono. Sì, ma quelle sono le segretarie tue. è la mia segretaria allora. Ma non è la mia segretaria, è una della redazione, quella là. Mi sono sbagliato, scusami. Vabbè, allora io ho capito, Tavecchio, no? Tavecchio, il presidente della Federcalcio, ha detto che la Juventus non può chiedere né i soldi né lo scudetto indietro. Dopo questa roba qui, dice che non può chiedere né i soldi né gli scudetti indietro. Signor Tavecchio, non era tuo amico? Sì, veniva spesso a Torino da Giraudo, perché non se la intendeva molto in quel momento con Abete, sai, è una politica federale. Cercava appoggi da voi. Tavecchio forse gli hanno fatto dire questo, perché non mi sembra che possa dire cose del genere. Le può anche pensare. Ma non le può dire. Può anche pensare, però mi sembra esprimersi così. perché sennò bisognerebbe rivangare un passato che praticamente non è neppure il caso di rivangare. Cioè, qual è? Perché squadra ti fa da vecchio? Inter. Ha seguito l'Inter anche nelle coppe europee. Cioè interista sfegatato. Sì, tant'è che Oriali è team manager della nazionale. Ah, tu dici che c'è un'affinità da questo punto di vista. C'è un'affinità, sì. Ma Oriali non era stato condannato per la storia dei cosi? No, di cose. Perché dei passaporti? Che cos'era? Sì, ma a Tavecchio che ne frega, lui è interista. Ah, tu dici che l'ha preso perché soprattutto sì, perché è interista. E questa cosa degli scudetti la dice perché è interista. Sì, penso proprio di sì. Ma una volta non si era dimostrato favorevole alla tua riabilitazione? Ma credo che allora, se c'è tu sei stato radiato dal calcio, in teoria non puoi assumere nessun incarico nel calcio. Ma sai perché sono stato radiato dal calcio? Perché? Sono stato radiato perché ho chiuso Paparesta nello stazione. No. Scusa, il processo ordinario è simile a quello sportivo. Il processo sportivo ha detto campionato regolare, sorteggio regolare. Quindi, e poi ha chiuso l'arbitro. Sei stato radiato. Ora tu vuoi che questa cosa cambi? So che vuoi andare pure in Europa. Corte Europea. Sì, ma quello l'ho già fatto. Sì, già fatto. E come si può eliminare questa cosa della radiazione? Tu vuoi, alla fine, io Calciopoli vivrà finché io non sarò riabilitato, o no? Anche penso nel calcio. Proprio di sì, ma tu conosci. Cioè, non è morta Calciopoli. Tu conosci la storia della avvocato Dupont, del giocatore che ha fatto cambiare le regole in corso. Sì, coso, Bosman, sì, certo. Tu vuoi fare così? No, io non voglio fare così, vado lì però. Vai alla Corte Europea, per togliere questa radiazione alla fine. Sì, e poi magari chi l'ha messa si rimetterà qualcosa. Guarda che... Cioè, sei tu a chiedere i danni, dici? Cioè, dal 2006... Vuoi chiedere i danni al calcio? Dal 2006 adesso... Quanti soldi hai perso secondo te? Quanti soldi hai perso? Hai fatto un calcolo? Che ne so? Facciamo un calcolo. Ma io, guarda, tanto ce l'hai già i soldi. Sì, hai accumulato un sacco di soldi. Allora, il problema praticamente te lo devi porre in essere con delle cose abbastanza. No, me lo devo porre in essere che è il problema. Che c'è, Parenzo, non devi interrompere, perché se mi interrompi io poi perdo il filo del discorso. Adesso non mi ricordo più di quello che volevo dire. Vabbè, io non capisco ancora una cosa: il mondo si dividerà sempre in due, tra quelli che pensano che gli scudetti della Juve siano stati tutti influenzati dal potere di Moggi e quelli che invece pensano che siano stati scudetti meritati. Io sono della corrente mughiniana, lo dico anche chiaro. Io te credo. Riguarda te, io sono della corrente mughiniana, cioè dico che gli scudetti si erano vinti sul campo con merito. Bene. Questo l'ho sempre detto anche prima di conoscerti. E abbiamo fatto vincere pure la nazionale titolo mondiale. E torniamo. Adesso ci attiriamo l'odio di tutti gli juventini e gli anti-juventini d'Italia. Voglio capire da te, dopo il traffico, se l'Inter vinceva, non vinceva perché erano pippe nel management. Sì, erano pippe. Oppure c'era Moggi con la cupola che impediva la vittoria. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Allora, ultimi minuti con Luciano Moggi, prescritto, lui dice innocente, però altri dicono colpevole lo stesso per la vicenda Calciopoli, il processo penale per la situazione delinque a frode sportiva, da cui è stato assolto frode sportiva, condannato anni fa dalla giustizia sportiva, a mio parere, l'ho detto più volte anche prima di conoscere Luciano, con processi di tipo staliniano. Ma scusami un attimo, dimmi. Facciamogli a Lucianone commentare quelle frasi abominevoli dette dal signore dell'Inter sulle squadre. Ma l'avrà già detto, Luciano scrive dappertutto, scrive, parla, con Libero, scrive, eccetera. Quelle sugli stranieri di Mancini, che pensi? Una cazzata che ha detto Mancini? Quella cosa che ha detto, che uno deve giocare in nazionale solamente se c'ha il passaporto, se è nato in Italia, a prescindere dai nonni, dagli zii, eccetera. Adesso diciamo tutte quante le nazionali hanno una specie di parcheggio per gli oriundi. Voi guardate anche in Germania. Sì. Per andare, quindi il problema praticamente va affrontato in una maniera giusta. Bisognerebbe che tutti quanti si comportassero nella stessa maniera. Dovrebbe essere in Europa, tu dici. In Europa, beh, è chiaro. Dovrebbe essere. Mancini ha detto una cazzata oppure ha detto una cazzata, ha detto Parenzo, se lo domanda a me, ma perché vuoi rispondere a te? No, per figurati Lucianone, però vabbè, allora dai, ragazzata una mezza cazzata. L'Inter vinceva gli scudetti perché erano non vinceva perché erano Pippe quando c'eri tu? Beh, l'Inter non vinceva perché io non ho mai comprato Van Peta, Taribo West, questa gente a Canzucur. Erano incapaci. Sì, penso proprio di sì. Erano incapaci, benissimo. Allora, ci perdoni il professor Moratti, l'amico. Ma non faceva mica la campagna Moratti. No, vabbè, però metteva i soldi pure tanti. Lui, sì. Il signor Andrea Agnelli è un grande rapporto, lo si sa, con il signor Andrea Agnelli, no? Un rapporto. È stato l'unico, cioè gli Elkan, che rapporti hai con i signori? Con Lapo Buoni. Adesso Buoni? L'ho sempre avuto i Buoni, perché lui ha sempre detto che io ero simpatico, quindi non è, poi l'ho rivisto. E con l'altro invece? Ho parlato con l'altro, non ho più avuto occasione. Non è più avuto rapporti, ti hanno tradito un po' all'epoca. Gli avvocati grande. Vabbè, ma gli avvocati che decidono, mica decidono loro. L'avvocato della famiglia era grande Stevens. Tu lo sai, Parenzo, che sai cosa diceva l'avvocato Agnelli di Moggi? Che diceva? Lo stalliere del re deve sempre frequentare il ladro di cavalli. No, caro Parenzo, non è proprio così. L'avvocato Agnelli deve conoscere. Lo stalliere, come faceva Agnelli? Imitalo un po', come lo faceva? Capito? Non è proprio come dici te. Io dovevo conoscere, ma ha preso perché sapeva che conoscevo tutti i figli della mignotta che esistono nel calcio. Vabbè, pure te non eri uno così, pure te c'è un pelo sullo stomaco grosso stati. Così. Non c'ho peli, te lo giuro. Che ti depili? No, che depilo io, proprio non mi sono nato. Ho capito, ma c'è un pelo sullo stomaco grosso così. Tu parli di un pelo particolare, no, quello ce l'ho. Quello ce l'hai, cioè ce l'hai lungo come Rocco, non mi dire che c'hai. No, lo so io, Rocco, non mi intendo. Quanti centimetri c'hai? No, non mi dire che sei molto dotato. Mortacci, ragazzi, ma mi impaurisco quando lo vedo. Ma veramente stai sì. Ma sei sui 20? Ma anche di più. Ma dai, non ci credo. Mi impaurisco. Ma veramente stai dicendo? Ma non è per questo che verrà ricordato Moggi, ti assicuro. Beh, ma lui vorrebbe magari a questo punto. Parenzo ci vuol mettere sempre bocca. No, Parenzo tanto. Parenzo ce l'ha Mini. Ecco perché Parenzo ce l'ha un po' Mini. Ma io non ci credo a questa cosa, sei super dotato, dai, non ci credo. Mortacci, mi faccio paura. Ti fai paura da solo. Madonna, ragazzi. L'ultima volta hanno usato una lente, quindi. Con te hanno usato la lente? No, con me. Tu lo sai che se fosse passata la legge sulla prescrizione saresti fottuto, sì. Se fosse passata la legge adesso che vogliono fare sulla prescrizione, saresti fottuto. Ma tu pensi che un processo come questo debba durare 10 anni? No, sinceramente no. Se hanno le prove schiaccianti, via subito. Bravo Beppe. A me lo dici. E Parenzo deve stare zitto allora, perché è contro lui. Amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Eccoci qui, ultima volata con Luciano Moggi, che mi pare molto pimpante. Non è che fosse mai, cioè, capito, depresso. Sei mai stato depresso, Luciano? Depresso, depressione. Depresso oppure No, io la depressione la lascio agli altri. Cioè, sono gli altri che vorrebbero deprimermi, ma non ce la fanno. Però adesso, dopo aver fatto io so io e voi non siete... Alla grande, sei fatto però pure... Però ho escluso Parenzo, io. No, ma io sono felice che ti abbiano prescritto. No, Parenzo, tu ma io... Tu consideri Moggi il male, Parenzo, questa è la realtà. Consideri Moggi un gran figlio di puttana. Dichiaralo, dillo. Io lo... il principe dei figli di puttana. Ma do alla parola figlio di puttana, il nostro figlio di puttana, come si diceva in gergo, come si dipinga come un'orsolina, non credo. No, per carità. Cioè, non è che lui vuole dare di sé l'immagine di Papa Francesco. No, però tu non mi puoi dare sempre contro, Parenzo, perché anche contro? In 30 ma minuti ha sempre detto no a quello che abbiamo detto noi. Ma scusami Moggi, ma la storia se non ci fossi tu, cioè se non ci fosse Joker, Batman non esisterebbe neanche. Questa capito? Ragione, ma io che parte devo fare qui? Ho capito. Io non ho capito se tu ti senti un po' perseguitato dalla stampa, dai giudici, eccetera, come Berlusconi. Un po' ti ci senti come Berlusconi. No. Cioè l'uomo nero, no, l'uomo no, nero. Guarda, cioè, molti continuano a scrivere oggi anche Crosetti e altri dappertutto, che pure un po' ti difende su Repubblica, eccetera. Difende, come dire, la Juventus e altri. Dicono: vabbè, ragazzi, è stato prescritto, però in fondo la sentenza di appello resta perché non è stata, diciamo, cancellata. Non c'è la soluzione. A questi signori li va ricordato che in 10 anni non sono riusciti a provare la colpevolezza, hanno solo provato che il campionato era regolare, il sorteggio era regolare, le comunicazioni esclusive dicono di no, che alteravate le partite. Il procuratore generale scrive che c'è un'associazione che sa dire? Il procuratore generale, te lo leggo, il procuratore generale sostiene nella sua requisitoria, dove poi è arrivata la prescrizione, che avete fatto l'associazione a delinquere. Con chi? L'associazione a delinquere con quei 4-5 che alla fine sono stati prescritti. Ma che prescritti? Sono stati tutti assolti. No, prescritti. Ma prescritti. Se non hai la prescrizione è alla fine un'assoluzione che non è colpevolezza, però è così. Se non hai addirittura 2 arbitri che hanno rinunciato alla prescrizione, sono stati assolti da Ma lo scrive hanno scritto i giudici, mica l'ho scritto io. Tu vuoi che ti legga che dice il procuratore generale? Ma io lo so. Lo sai benissimo, lo so. L'hai ascoltato, no? Il procuratore generale scrive. A parte il fatto che quello che leggo sui giornali ci credo un po' poco. No, ma che sui giornali? Sono sue parole. L'associazione a delinquere finalizzata a condizionare i risultati delle partite, le designazioni arbitrali, le carriere degli attori di gara e l'elezione dei vertici della Lega Calcio, struttura associativa nella quale tutti si ritrovavano ad attentare ai risultati delle singole partite. Questo lo dice il procuratore generale. Allora dovrebbero essere dovrebbero essere colpevolizzati i vertici della federazione, tutti quanti. Vabbè, infatti alcuni, Mazzini per esempio è stato prescritto, ma era in quel processo lì. Per esempio quando Carraro ha detto al designatore la Lazio va salvata e praticamente non deve retrocedere. Ma Carraro a proposito, che fine ha fatto Carraro? Alla FIFA. Alla FIFA? E perché lo dici così, alla FIFA? No, si fa per dire, no. Vabbè, ma nella vita che vuoi fare? Ormai che vuoi fare? Quanti anni hai? Io ho 51. Ma che dai, quattro anni sono stato malato. Ma che te frega? Ma che vuoi fare nella vita adesso? Che vuoi fare? Dimmi, un'ambizione che hai? Un'ambizione che hai? Parenzo, ecco, non ti devi intromettere. Dai, che vuoi fare nella vita? Dimmi. Non ti devi, perché stiamo parlando noi due. Dai, allora, Luciano, dai. Che vuoi fare nella vita? Voglio fare adesso un'ambizione che c'è. Decidere. No, ambizione è cantare a Sanremo. Veramente vuoi andare a cantare a Sanremo? Voglio andare. No, ma adesso dimmelo sul serio. Ma giuro. Beh, ho capito, c'è anche una canzone che hanno fatto. Sei intonato? Sei intonato? No, io sono proprio intonato, no, ma ci manca poco. Ma l'inno della Juve lo sai? Ma sì. Qual è? Quello no. L'ho fatto scrivere io. Ma sì, mo tutto te hai fatto, no, fa pure l'inno. Ho fatto rifare l'inno da Paolo unico, Belli. Cioè, unico grande amore è una cosa tua. No, di Paolo Belli, ma l'ho di Paolo fatta, com'è l'ho che fatto fa? Com'è che fa? E chi si ricorda Juve, grande amore. Juve, unico grande amore. Dai, no, dai, fai cantalo. Ascoltare la canzone che hanno fatto su di lui, bellissima. Dai, qual è la canzone? È la canzone? Che hanno fatto su di lui? Forza Luciano Moggi. È famosissima, è su YouTube, la trovi dappertutto. Ma chi l'ha cantata? Vabbè, dopo un gruppo di un gruppo fantastico, tutte le imprese, tutte le resti. Com'è che fa? Tu, Parenzo, com'è che fa Luciano? Juve. Storia d'un grande amore. Ma mamma mia, come sei? Vuoi andare pure a Sanremo? Ma dove vuoi andare a Sanremo? Ma io mi correggo perché sto studiando. Ma veramente musica, vuoi andare a Sanremo? Ma certo. Vuoi andare a Sanremo a cantare una canzone? Andiamo io e te. Ti stai preparando? Tu ti stai preparando per Sanremo? Ma chi c'è qua? Chi è che ha chiamato? Dai, chi è? Chi è? No, chiedo scusa, Luciani, diciamo le cose come stanno, sì. Perché voi per l'ennesima volta avete bidonato tutti. Cioè? L'istituto c'è l'imitatore, ha detto che c'ha l'uccello di 20 centimetri, allora? Ma io ce l'ho più lungo, è ora di dirle queste cose. No, Luciano, cose. Voi parlate soltanto di prescrizioni, lasciate perdere, il mio imitatore è simpatico. Però vi abbiamo preso per il culo, era un imitatore, non era Luciano, eccolo qua Luciano. Queste cose. Cioè basta, tu stai dicendo Sandro, che in realtà no, sei addirittura superiore in ora quanto ma io sono sicuramente superiore all'imitatore, ma stiamo scherzando, e almeno da questo punto di vista ci tengo che non vengano dette delle cose sbagliate. Va bene Luciano, certo, grazie, dicono troppe. Vergognatevi che vergognatevi. Comunque lo fai bene, lo fai bene l'imitazione, complimenti. Ma stiamo scherzando, però così freddo può andare in pensione. Vabbè, ciao. Vabbè, comunque io ti ripeto una cosa prima di lasciarti, che se era passata la legge sulla prescrizione eri fottuto, questo lo sapevi, no? Hai fatto un po' il tipo perché non passasse la nuova legge sulla prescrizione, no? No, che tanto non ti riguardava, dici. Non ti riguardava. Non riguardava. Ma Giraudo, tu hai combattuto, questo Giraudo sei glissato, che fine ha fatto? Lo senti ogni tanto per telefono? Ha patteggiato. Sento Parenzo in linea. No, sì. Sai dove vedrei bene Moggi? Dove lo vedresti? Dimmi, dove lo vedresti? Lo vedrei bene a capo dello IOR. No, come a capo dello York. Oh, guarda, sì, sì, guarda sì, che sì. Ascolta Parenzo, c'è stato un giornalista che ha scritto che io avevo 150 milioni alla banca dello York. Io a questo giornalista gli ho detto vai a prenderli, ti faccio la delega e facciamo metà per uno, ma non c'è mica andato, sai? Senti, ma quanti soldi hai messo da parte? Zero. Ma ho speso ho speso tutto per questi processi. Cogliapo, quanto hai speso per gli avvocati? Per un milione? Ma di più. Più di un milione di euro? Ma no, dimmi più. La verità stavolta, sul serio. Quanto così hai speso? L'arrestano tutti. Quanto hai speso? Ma guarda, mi dovevano pagare loro per la pubblicità che gli ho fatto fare. Agli oh. avvocati? Certo. Ma non hai speso? Gratis, ti hanno difeso gratis. Ma proprio gratis, gratis, no, ma ci manca poco. Gratis? No. Dai, Luciano, cioè, quanto hai speso, dai? Poco. Niente. Quanto? 200, 300 mila, 400? Ma essere matto. Meno. Ma mi devono pagare per la pubblicità. Ma poveracci sti avvocati. Ma sì, dai. Sono arrivati alla prescrizione. Il treno in seconda classe. Ma un regalino gli hai fatto o no? Ma sì, li compro ogni tanto. Un Rolex. Quelli hai alla Roma. Luciano Moggi, grazie, arrivederci. Prego, ciao Luciano, prego, ciao. Forza, forza, Umberto Milano, adesso tutte le telefonate contro Moggi, tutte contro Moggi. No, contro Moggi relativamente, volevo solo ricordare a Parenzo che la frase di Agnelli era che Moggi era un male necessario alla Juve. No, io sapevo lo stalliere del re deve sempre... Vabbè, allora Umberto, non ho capito, Moggi allora... Perché Moggi veniva già da una condanna ai tempi del Torino per corruzione degli arbitri. Vabbè, adesso poi vai. Poi, allora? E poi questo qui è un paese di corrotti, da tutti. Cioè, il problema è che purtroppo il 9 dicembre non è riuscito a svegliare le coscienze. Ma che cos'è il 9 dicembre? Che cos'è il 9 dicembre? I famosi forconi di cui lei parlava. I forconi. Ma che cos'è? Ma ancora esistono i forconi? Esistono ancora i forconi, ve ne accorgerete. Esistono con i forconi. Con ma i forconi in testa te li devono mettere a te, i forconi. In testa te li devono mettere. I forconi esistono. E poi la gente come te, Cruciani, quando sarà il momento, non ne pagherà le conseguenze. E che fate? Mi appendete? Non mi appendete? No, la violenza non serve. La gente muore già da sola. Non serve la violenza. Perché la violenza? Vabbè, la protesta, Umberto, grazie. Giancarlo Catania, vai. Giancarlo da Catania, vai. Ciao Davide, volevo chiedere solo una cosa: perché non avete chiesto a quel buffone di Moggi? Sì. Non ha rinunciato alla prescrizione. Ma gliel'abbiamo chiesto. Che ti devo dire? Cioè, sono arrivato in ritardo. Allora, mai diciamo. No, gliel'ho chiesto perché non ha rinunciato alla prescrizione. Gli ho detto prima non potevo rinunciare, dopo chi se ne frega, più o meno. Cioè, buffone. Ma perché uno è che, scusa, oppure questa cosa qua, no? Perché uno deve rinunciare alla prescrizione? Cioè, ci sono delle tecniche della difesa che sono normali. Cioè, no, se... perché uno potrebbe dire: siccome so di essere innocente, voglio che venga certificato dal tribunale, rinuncio alla prescrizione. Qualcuno lo ha fatto. Sì, adesso, d'accordo, dire però che se uno pensa. Se l'ha fatto. No, c'è chi l'ha fatto, certo, De Santis l'ha fatto, non c'è dubbio. Però io ti dico una cosa: siccome qualcuno pensa che magari il processo è sbagliato, si utilizzano tutte le tecniche per dilazionare un processo. Ah, non c'è dubbio. Questa è una tattica della difesa che è normale. Cioè, a mio parere, la prescrizione deve essere allungata, non ci deve essere. Poi dipende dai reati, ovviamente. Appunto. Allora? Certo. No, io questo qua lo sapevo. Se lui si proclama innocente. No, no, dice che a un certo punto. Il carbone bagnato ce l'ha. Sì, perché è sempre stato radiato a vita, non di certo per quella storia, no, è stato sempre è stato radiato, infatti non è solo per quello. Federazione Calcio, è stato radiato con un processo che io ritengo sbagliato, perché i processi della giustizia sportiva, questo in generale a prescindere da Moggi, li ritengo una cosa staliniana, che in due mesi vengono risolte e decise cose che di solito vengono ci si mette anni per deciderle, no, in altri ambiti. Per me, perché doveva ripartire il campionato a settembre, quindi ovviamente le tempistiche Francesco da Bergamo, Francesco, vai. Buonasera a tutti. Dimmi. No, volevo parlare anch'io della stessa cosa. Cioè, è assurdo che portate una persona così a parlare. Capisco l'audience e fa audience portare certi personaggi, certi furbi. Però adesso. Ragazzi, dire qui che mi dividete innocenti... per il tifo. Io me ne fotto totalmente. No, non me ne frega. Me ne fotto niente, totalmente. Non, guarda, invito le persone che voglio. Le persone non che voglio. Calcio, le persone che sono protagoniste calcio. Di storie. Protagoniste di storie. E non che c'è dubbio. Ma come che storie? Uno che si è salvato perché. Uno che si è salvato perché è andato in prescrizione il reato. Allora è una ho storia. Capito, ma io avrò. Come, scusate, cioè, Luciano Moggi è un protagonista delle storie del calcio. Negativo. Vabbè, ma per te è negativo, per altri no. Cioè, per una marea di italiani no. Allora, va in prescrizione. Allora, ma che vuol dire? È andato in prescrizione? Ma io l'avrei invitato anche se fosse stato condannato a 10 anni. Non hai capito ancora? Allora, perché qui si invitano anche persone. Sì, cioè, ma non, fanno non è... passare come un martire, no? Ma chi l'ha fatto passare come un martire? Io l'ho chiesto, ti sento un perseguitato? Oppure tu sei un perseguitato? Ma non l'ho detto io, è una domanda. Era il processo sportivo, lo considero, ma l'ho scritto in tempi. Senti, amico mio, senti un attimo. Quello che io penso del processo, quello che io penso del processo sportivo. Ma come no, non l'ha difeso? Che fino all'altro giorno sputava su Berlusconi perché era stato salvato per le prescrizioni. Allora, invece senti, oggi no. Senti, mettiamoci d'accordo un momento, perché altrimenti non si capisce. Ecco, appunto. Primo. Signor Moggi è protagonista su tutti i giornali per questa nota vicenda della prescrizione, quindi sì, non si capisce perché non si deve invitare, ma questo è un altro, è un aspetto che liquiderei in 40 esatto. secondi. Esatto, cosa numero due ti aggiungo io, parentesi, corollario alla prima cosa, non c'è un nuovo processo, non è che qui istruiamo un nuovo processo, si intervista in maniera più o meno, diciamo, come dire, no, scherzosa in questo caso, un personaggio che ha una storia lunghissima da raccontare, le prescrizioni, la giustizia sportiva, non è Calciopoli Terra, Quater e la Zanzara, chiaro Francesco? Solo una cosa, se tu dici il tuo parere, che è sicuramente il tuo parere, ma se tu dici allora, secondo me quel processo è stato un processo stalignano, mi dicendo il processo sportivo, sì, sono convinto. Questo non lo credo, ad esempio. No, il processo sportivo, bravo, non il processo. Tutt'altro, il processo sportivo è più credibile di quello giudiziario. Ma quando mai? Peraltro. Quando mai? Francesco, non ho capito. Il processo sportivo io lo considero, ma in generale, non quello Moggi. Allora, quando Moggi si mette dentro, quando tutti si mettono dentro nel giro dello sport, tu metti in conto che il processo sportivo è questo, è sempre stato questo. E giochi con le regole di questo gioco. Punto. Non ti puoi incazzare se poi loro, a prescindere ma infatti mi sono incazzato normale, io lo posso considerare, non sei incazzato, Moggi, per quello sportivo pure, martire, certo. No, Francesco, io penso che il processo sportivo, vabbè, poi adesso non frega un cazzo a nessuno. Allora, siamo qui, andiamo a Venezia. Mario, vai. Mario, dimmi. Sono qui. Dai, forza. No. Ascolta, due cose. Uno, il buon Tormina dovrebbe smettere di dire stronzate. E noi tutti dovremmo cominciare a dimenticarlo. Meno gli facciamo pubblicità. Ma perché dovremmo dimenticare Tormina? Questo. Oggi sono atterrato alle due alinate. E sono andato, aspettando per arrivare qui a Bergamo, nel club SEA, lì nella saletta. Sì. Chi ho trovato? Taormina, allora? T'ha insultato? Che era con un collega di Varese, ci siamo salutati, ci siamo un po' menati quel paese, poi ci siamo abbracciati, ci siamo insomma, riconciliati. E mi ha detto che sta seguendo un processo importantissimo. Un processo molto importante. Non so se si può dire, però. Dillo, che te frega. Dove è una storia incredibile, dove c'è questa signora che è in carcere da un anno, accusata di aver ucciso il marito. E io gli ho detto, tu ovviamente difendi la signora. Certo, è innocente. Ma no, veramente ha ammazzato il marito. Dice, guarda, non ha mai parlato, non ha mai cantato, tra poco la scarcerano pure. Ma la storia interessantissima di questa cosa, di questa storia, è che con lui c'era l'altro avvocato, suo collega, che è presidente del Varese Calcio. Ah, ma il mito dell'altro giorno. Esatto. No, vabbè, ma questo è il top assoluto. Ma io ero lì alla... Siamo in diretta adesso? Sì, siamo in diretta. Ah, cioè, ecco bene. Ma io ero lì e ti volevo chiamare, ma non prendeva la linea. Perché volevo passarti il suo che ha, sono insieme nel collegio di difesa a difesa di questa santa donna. Diciamo che il combinato disposto, esatto. Non vorrei dire nulla. Perché la cosa più bella è stata, ma questa qui, persona bravissima, non ha mai parlato. Ha ammazzato il marito, No, innocente sicuro. Ma innocente cosa? Ha ammazzato il di aver ucciso il marito. Il marito, sì. E quindi è una adesso scatola pure i termini, fottiamo tutti, ma vuoi darmi di custodia, liberiamo subito. Era informissima, appena tornato da una... Ma dobbiamo assolutamente pizzicare il presidente del Varese Calcio. Allora, siamo con Mario, vai Mario. Sì. Allora, vi dicevo che dovremmo vederlo, io vorrei vederlo fra 30 anni in quel programma che si chiama Meteore, che facevano una volta, perché deve scomparire per 30 anni. Ma perché? Che ha fatto sto povero Taormina stavolta? Basta con omofobia, basta. Ah, sulla storia del coso, dici? Sulla storia del... Siamo stufi di sentire tutte queste cagate tutti. Allora, ragazzi, però voglio farvela riascoltare, perché da un certo punto di vista è eccezionale. Allora, l'avvocato Taormina, l'ho detto anche all'inizio della trasmissione, ha avuto un evento, Parenzo, un evento positivo, un evento felice, che è quello della nascita di un nipote. Applausi, baci, abbracci, champagne stappato, eccetera eccetera. A un certo punto che succede? Che scrive su Twitter una cosa riguardo al nipote, dicendo: mi è nato ed è maschio. Sentite. Ho un figlio che ha 16 mesi, ma non mi verrebbe mai da, scrivere su veramente maschio. A me viene, allora a me viene. Beh, è un po' strano. A me non viene. Mio. Che può fare? No, a me non viene. A me non viene di scrivere: mio figlio è veramente maschio. È veramente maschio, perché io sono soddisfatto che sia veramente maschio. Chi l'ha detto? Ma che ne sai che è veramente maschio, poi? Che ne sai che è veramente maschio? Giusto, questo è vero. All'apparenza, questa è la situazione. Poi vedremo nel futuro. Avevo paura di qualche accidente omo. Significa che avevi paura che fosse gay. Appunto. Certo. E allora è recidivo. Si chiama recidiva questa. No, no, no, assolutamente. Si chiama recidiva. Scusa, scusami. Io ho desiderato che fosse maschio e maschio è. Ma scusami un attimo, non puoi saperlo. Magari, magari diventa frocio. Può darsi, può darsi, può darsi. Ci adegueremo, ci adegueremo. E che vuoi fare? Che vuoi fare? E che dobbiamo fare? Se la natura è quella, la prendiamo in considerazione. Che dobbiamo fare? Pensa se a un certo punto bussa alla tua porta, dice: caro zio, caro zio, nonno, lo prendo in culo, nonno. Beh, quello che è, no, non lo prendo. Peggio per lui. Ma come peggio per lui? Dice: mi, mi piace, dice, mi piace pure. E mi piace, peggio per lui. Farà la sua vita secondo quelle che sono le sue scelte. Ma un Taormina, un Taormina omosessuale, lo vedi? Te lo senti come cosa? Un Taormina, se disgrazie che capita, lo dici te. Tutto può capitare, tutto può. Anche le disgrazie più incredibili. Tutto può capitare, ma non so se è una disgrazia, sono fatti suoi. Li viverà lui. Allora, capito Mario? Sì, ho capito che è una grande pubblicità e basta che si fa dicendo. Quale fetteria, pubblicità? Che gliene frega? Allora, molte telefonate contro Moggio, le prenderò tutte. Paolo, provincia d'Imperia, una però per una. Ti voglio dire, dovremmo invece, per tornare al discorso prima di Taormina, dovremmo invece seguire noi, perché lui mi ha detto: non capisco perché le televisioni non se ne occupano, perché è un caso interessantissimo. Vabbè, ho capito, dovremmo, dobbiamo seguire un processo. No, dovremmo. Di pazienza. Ma sì, perché la descrizione che mi ha fatto di, di questa persona che è in carcere da un anno, sarebbe da chiamare da capire come si sviluppa questo processo incredibile in cui questa signora è accusata, siciliana, è accusata di aver ammazzato il marito. Di aver ammazzato, ma per il gelosia marito. Per che cosa? Beh, mi posso spiegare da lui. Vabbè, Paolo, provincia di Imperia. La storia affascinante. Pronto, buonasera. Paolo, dimmi. Dai, dimmi. Buonasera. È mezz'ora che sto sudando. E vabbè, vai, forza, Moggi. Vai a sentire Moggi. E vabbè, che Moggi. Sarai un personaggio che ha fatto perdere la credibilità del calcio italiano. Va bene, poi? Niente, dico che a sentire lui mi viene il brivido, veramente. Ti vengono non i brividi. Non si ricorda quando l'hanno preso la prima volta che ha detto: mi avete ucciso il cuore. Sì, adesso sì. Se la ride. Sì. Adesso se la ride, fatti, io sono io e voi non siete un cazzo, questo ha detto. È un bel personaggio, dovrebbe, se la Juve se lo dovrebbe riprendere subito, già che è innocente, no? Cosa sta a fare lì? La Juve la dovrebbe riassumere subito, visto che è innocente, che lui dice che è innocente, che non ha fatto niente di male. Ma ho capito, ma è radiato, cioè è stato radiato dal calcio, dal calcio. Andrea da Roma, vai Andrea. Sì, ciao Giuseppe, solo una cortesia, una richiesta. Sì. Se gentilmente volete evitare di abbinare la storia del grande Alberto Sordi con personaggi così squallidi come Moggi. Perché mi sembra fuori diciamo della storia della. Vabbè, ma era il modo di dire di Sordi, nessuno ha fatto un paragone tra Sordi e Moggi. No, perché è Dio, però è veramente fastidioso, capito? Cioè, vabbè, a te con una persona così squallida. Vabbè, a te ti sta sul cazzo Moggi, dai, a te ti sta sul cazzo Moggi. Abbastanza, direi. Vabbè, ti sta sul cazzo Moggi, a me invece mi sta simpatico, che devo fare? Vabbè, sarà un problema mio, io non lo vedo come problema, tu invece sì. Gianfranco da Taranto, vai, Gianfranco. Sì, ciao Giuseppe, ciao dimmi Marenzo. Vai, dimmi. Volevo Intervenire su Laura Boldrini, la nostra presidentessa. Allora, voglio dire un paio di cose. Innanzitutto, l'immagine che io ho di mia nonna dietro i fornelli mentre mi prepara quando ero piccolo vale più di 100 ministri o mille presidenti della Camera. Certo, certo. Quindi non vedo nulla di scandaloso in questo. Sì. Detto questo, la nostra presidentessa Boldrini, che occupa il suo tempo, il suo spazio, e questo è anche sinonimo della distanza che c'è tra il mondo reale e la vita dei palazzi, che perde tutto questo tempo a fare queste cose. Ma la nostra presidentessa non è la stessa, spero di non beccarmi una querela perché... Vai, tranquillo. Non è la stessa che ha partecipato, ha fatto la ragazza Coccodè, oppure ha partecipato... Sì, in una trasmissione, tanti anni fa. Sì, vabbè, ma questo, diciamo... Ma questo non è un controsenso. Prima è tutto un controsenso. Ma la cosa più clamorosa di questi giorni non è la posizione della Boldrini sulle pubblicità, cioè sulle donne che, secondo lei, non devono stare dietro i fornelli nelle pubblicità, perché è una tale follia che l'ho già commentata mille volte e non ho più voglia di commentarla. Evidentemente il presidente della Camera è ripetitivo perché non ha niente da dire. Non ci sono argomenti nuovi e ogni volta torna a fare convegni in varie occasioni, si pronuncia contro le pubblicità in cui la donna cucina, una cosa ridicola e anche un po' patetica. Ma la cosa nuova è la decisione del sindaco Marino. La decisione del sindaco Marino a Roma, con tutti i problemi che a Roma, mi ricorda la roba di Troisi che era sul traffico, no? Di Benigni, sul traffico a Palermo. Cioè il problema di Palermo è il traffico, il problema di Roma invece per Marino sono i manifesti in cui appare la donna forse un po' nuda. Le pubblicità delle donne, no? Sai quelle bellissime pubblicità delle donne in realtà non esistono pubblicità volgari, raramente esistono pubblicità volgari. I pubblicitari italiani sono bravissimi, sono fortissimi, i disegni che vengono fatti, le foto che vengono messe sono straordinarie, sono una roba incredibile a livello di creatività. Dunque la signora Marino non ci deve rompere i coglioni su queste robe qui. I creativi italiani, i pubblicitari, sono una delle anime di questo paese, sono gente brava che si inventa dei manifesti bellissimi per vendere i prodotti, per l'economia di questo cazzo di paese. E allora perché il sindaco di Roma, invece di pensare alla metro C che è indietro di 100 anni, al traffico, altre cose importantissime, si occupa di dire i manifesti non ci devono essere le donne nude? Perché è una cosa che è incredibile, che dovrebbe fare incazzare tutti, dai tassisti che ci stanno ascoltando, che guardano i manifesti in tutta Roma e certamente non sentono la volgarità, perché non è, tranne rarissimi casi, la volgarità nei manifesti pubblicitari con le belle donne, con le cosce, con i seni che si vedono e che non si vedono, è una roba normale, è la modernità, il mondo, l'Occidente, altrimenti siamo ai mullah, altrimenti siamo all'ISIS. Ho finito Parenzo. Ma questo è vero. Ho finito. No, non siete seri per niente. Ma qui è tutto un casino, dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Segreteria telefonica. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ma siamo sicuri che Parenzo è laureato in giurisprudenza, visto che querela qualsiasi persona che dice una propria opinione? Ma va cagava. Cruciani, dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate perché abbiamo bisogno di ridere. Parenzo, pezzo di merda, difendi ancora gli zingari, cornuto, tu e tutti quei sozzi zingaracci. Marino, faccio vedere a Bernarda. Volevo dire alla Boldrini che ha un attimino rotto i coglioni con sta storia delle pubblicità, che si aggiornasse, si leggesse un libro di comunicazione pubblicitaria del 2015 e non quelli del 74 di quando bruciava i reggiseni in piazza. Aggiornati! Non ho nulla contro i neri e contro gli omosessuali, purché i due fenomeni non avvengano contemporaneamente. Parenzo, tu ospita me, io rom, bravo, io rubo poco, io voglio restare a casa tua, cagare tuo cesso, bastardo, ospita me, Parenzo. Parenzo, sei un traditore, ti avevo regalato delle mutandine rosa commestibili, ma te mi hai tradito, col bagnino, dell'hotel Posta, a Bagni Mignoni, sei un porco e non mi piaci più, né come uomo, né come donna. Giuseppe, tu in Italia sei il top. Parenza no. Che campionario, caro Parenzo. Beh, è meglio che andare allo zoo, praticamente. Il numero 02, lasciate un gentile messaggio su quello che volete, sull'argomento che volete. Se amate i rom, se amate gli omosessuali, se amate gli extracomunitari, amate, anche se li amate, volete lasciare un messaggio magari gentile nei loro confronti, no? Se vi piace la signora Boldrì, che ne pensate? Fate anche magari un'osservazione sul rapporto euro-dollaro, se vi capita. Sì, oppure sui rapporti anali. No, su quello che volete. Un'altra roba. Tu quella, preferisci analizzare il rapporto euro-dollaro, io preferisco analizzare i rapporti anali. Sarà possibile anche alle 20:37 nella radio di Confindustria analizzare i rapporti anali? Non so se. Ma comunque, quello che volete, quello che volete. Io vi ripeto il numero 0246522 4010. Comunque, dimmi. Per tornare a quella follia della Boldrini, sì, mi segnalano giustamente che la Boldrini doveva allora censurare anche i manifesti del film di Fellini della Dolce Vita, dove c'era la bellissima Anita Ekberg che era in pose, come dire, in pose accattivanti, e all'epoca vennero in tutte le città, c'erano questi manifesti meravigliosi di Fellini. Assolutamente, anche, assolutamente. Anche Fellini vogliamo allora. Ma è una cosa senza fine questa cosa, no, qua. Uno inizia e non Boldrini sa dove finisce. Chiedilo alla Boldrini, a Marino, a tutti. Sono delle cose patetiche, ridicole. Con chi eravamo? Non ho capito. Con nessuno? Non eravamo con nessuno. Allora, Stefano da Firenze, Stefano. Ciao. Dimmi, caro, dimmi. Allora, anch'io sono nel castello di Carise e mi voglio divertire, caro Giuseppe. Io sono drogato della Zanzara. Sì. Stasera l'ho buttata giù male, perché mi sembra che tu abbia voluto, e non aggredire, sdoganare Moggi, che come vuol dire sdoganare Andreotti. Era mafioso fino a una certa data e poi no. Dopo questo ti voglio chiedere un tuo giudizio su il tuo presidente Lotito della Lazio, che dirige la Lega insieme a Galliani e dice degli arbitri, e quindi decide anche. No, non decide gli arbitri. Non decide gli arbitri perché la Lega, sai, c'è Galliani e Lotito. No, non decide nessun arbitro, perché gli arbitri vengono Lotito decisi dalle partite. Di Moggi, perché anche lui gli troveranno quelle cose. Quello non lo so, facendo. Secondo me Lotito ha troppi incarichi e fa troppo. Se pensasse solo a fare il presidente della Lazio, sarebbe meglio. Ha appoggiato Savecchio, che è una testa puntini. Grazie Stefano, grazie. Prego, grazie, ma ho mai risposto a cosa pensi del tuo presidente? Ma che ne pensi? È un discorso troppo lungo. Non siamo mica a tiki-taka qua. Cioè, cosa vuoi che dica? Finché i presidenti vanno sempre bene, finché si vince, no? Cioè, Leopardo. Dai, Leopardo. Su, forza. Allora, in una intercettazione, una ragazza che si chiama Ariel Espinosa, che è una delle olgettine coinvolta nel processo Rubiter, e chiamava Berlusconi nano malefico, insieme ad un'altra ragazza nano malefico. Pare che sia stata molto presente, tra l'altro, la signora Espinosa ad Arcore, un sacco, il record di presenze credo che ce l'abbia una delle gemelle De Vivo, sempre appartenente al fantastico mondo delle olgettine. Voi ve la ricordate Ariel Espinosa? Era amica di Maristel Polanco e soprattutto era quella che dava della cattivona a Berlusconi in una formidabile intercettazione telefonica. Cattivona. Amore. Cattivona. No, ma non sei cattivona, sei cattivissimo. Sì, non mi sanno più. Bene tesoro, ma sono in un guerra io. Sono in una guerra durissima. Quando vinco la guerra, poi ti vedo e approfitto delle tue bellissime labbra dolci. Sì, amore. Amore, ciao. Guarda, io ti volevo dire, amore. Dimmi. Ti volevo dire che io mi devo scrivere domani alla recitazione, perché voglio fare la recitazione. Sì. Lo sapevi, sì. E tu sei cattivo, perché io ti sto chiamando. Allora, va bene. Allora, avevi bisogno di qualcosa? Sì, amore. Perché ecco, allora di quello che hai bisogno a Maristella. Che va lei a prendere. Va bene, amore. Ciao amore, un bacio grosso, Un bacio. Ciao, amore, tesoro. Però vedi, uno lei al telefono fa la gentile con Berlusconi, no? Amore, non mi chiami più, eccetera. però avrei bisogno di iscrivermi a un corso, non so che cazzo. No, ma di... lì è una gentilezza infinita. Beh, strepitoso, un corso di recitazione, poi alla fine gliela butta là, no? Ho bisogno di iscrivermi a un corso di recitazione, dunque, insomma, infine, che cosa chiede questa qua? I quattrini, no? Chiede, no, mi sa che la tesi, io guarda, sai che ero perplesso, ma mi sa che la tesi di Sgarbi via via... Cioè la tesi del mantenimento, delle mantenute. Diventa sempre, beh, no, ma, certo, ma diventa sempre più vero, cioè che un uomo veramente generoso, che alla fine era lui che era ricattato da queste. Sentiamo, vediamo un po' se la pizzichiamo, sta Espinosa. Allo? Signora Espinosa, buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Cruciani, la Zanzara. Ho letto che Berlusconi da un po' di tempo non vi dà più soldi. Lei è arrabbiata per questo? È un grande amico. Sì. Comunque sia, si è sempre preso cura di me, dunque non mi ha mai pagato. Forse è più corretto dire aiutato. Ma ti ha messo in difficoltà dal punto di vista economico? No, non mi ha messo in difficoltà dal punto di vista economico. Ma cos'è questa storia della Pascale? Non ho capito, perché lei ha detto che voi approfittavate, voi, le persone che frequentavano Arcore, approfittavano di Berlusconi, è vero? Non è una cosa che la riguarda, oppure è sotto indagine anche lei, non ho capito. Io ho letto che lei dice che addirittura potrebbe querelarla, o no? No, ho detto in caso che qualcuno si permettesse di dire o parlare di qualcosa che insomma non è nel... insomma di cui non è informato, è ovvio che scatta automaticamente la querela, ma per chiunque. Ma questo è normale, dato che comunque qua ci sono delle persone di mezzo, non degli animali. Sì. Dunque abbiamo appena subito una perquisizione come dei criminali, ok, dove ci hanno trattato come dei criminali e dunque... Ma come dei criminali che vuol dire? Cioè vi hanno perquisito tutto, vi hanno spogliato, perché vuol dire? Una perquisizione è una perquisizione? Sì, una perquisizione come lo dice la parola stessa, è stato perquisito tutto, l'abitazione, qualsiasi oggetto, eccetera, di loro, insomma, per loro importante, è stato fotografato, è stato qualcosa sequestrato, telefonini, fotografie. Sì. Ma perché come animali? Perché tu dici come animali? Perché io penso che comunque sia, non abbiamo commesso alcun reato e non siamo dei criminali per essere trattati in questo modo, questo. Ma tu pensi che ti stanno trattando, vi stanno, parliamo di te senza fare voi, ti stanno trattando come una criminale per questa vicenda delle false testimonianze, delle presunte... Penso che una perquisizione del genere, cioè dove vengono spesi soldi pubblici, deve essere utilizzata appunto per cose un attimino un po' più, non per andare a guardare nelle abitazioni di una ragazza. Lei è mai stata a letto con Berlusconi? Sicuramente se è un mio amico non credo che questo sia possibile. Cioè mai, non sei mai stata a letto, non hai mai fatto sesso con Berlusconi? Ma anche se fosse così sarebbe sicuramente una cosa privata, non crede lei? Questa storia ti ha distrutto la vita? Non solo distrutta, l'ha proprio fatta sparire la mia vita, io non ho più una vita normale. Non ho più una vita normale, non vivo più come una ragazza della mia età, non riesco più ad andare avanti nella vita. Ma una frase c'è, la Pascale Parenzo ha detto una volta che voi eravate delle persone che si approfittavano di Berlusconi. Cioè lei si sente una che si è approfittata di Berlusconi per prendergli dei soldi, per succhiargli continuamente dei soldi o no? Beh, se lei legge una legge o sente un'intercettazione fra me e il presidente, capisce sicuramente che c'è un bellissimo rapporto di amicizia dove sicuramente se io me ne approfittavo di lui neanche mi cercava, dunque... Però non è un po' strano, non è un po' strano un rapporto di una ragazza così giovane come lei, un signore, oppure è normale, un signore di 75 anni come Berlusconi? Beh, è un carissimo amico, è una persona straordinaria di cui io posso imparare un sacco di cose, di cui mi ha insegnato tantissime cose, dunque penso che, anzi, che amico direi, no? Lei teme di essere condannata o no? Io non ho nulla da temere, penso, perché in questo caso non ho fatto nulla, dunque non credo che io debba aver paura. Sangue, sudore, sangue, merda, questa è la vita e così se mi piace. Sangue, sudore, sangue, merda, questa è la vita e così se mi pare. Roberto Roma, vai Roberto. Roberto? Roberto? Niente, Maurizio, provincia di Roma, dai. Sì, sono Maurizio, ciao. Dimmi. Due piccoli concetti. Uno, metterei insieme la cosa la Boldrini con il signor Moggi. Sono inutili. Inutili. Mm. Lui nel calcio, sì. La cosa la Boldrini in Parlamento. Sono inutili. Poi, per quanto riguarda Moggi, sì. Hai fatto benissimo che lo hai invitato. Tu sei un grande. Perché Moggi non lo devono condannare cose tribunali che va tutto in prescrizione in Italia come sempre, ma noi pubblico, ma lui, ma si ricorda che ha chiuso dentro allo spogliatoio cosa Reggio Calabria il signor De Santis? Veramente era paparesta, comunque vabbè. Vabbè, paparesta. E poi sembra ma che non l'abbia chiuso, dai. Ma le 10 schede telefoniche svizzere sì. Le ho comprate io? Ma lui che decideva tutta la griglia di tutte le partite della Serie A. Ma questo l'ho fatto io, sta agli atti. Non è proprio così, comunque. Queste cose stanno agli atti. Si dovrebbe vergognare perché è un delinquente. L'hanno imputato di organizzazione mafiosa a delinquere. Appunto. Lui ha delinquere. Associazione a delinquere. Ma non tu, ma lui si dovrebbe vergognare di essere chiamato in qualsiasi trasmissione televisiva, ma c'è gente ancora che lo chiama in televisione. Beh, certo. Ma che deve fare? Si difende, che deve fare? Ma io mi vergognerei come un cane per aver fatto quello che ha fatto Moggi. Maurizio, grazie. Ma... Flavio Teramo, Flavio, vai. Salve, buonasera. Dimmi. Gianni, buonasera Parenzo. Allora, volevo intervenire circa la Boldrini che... Presidente, invece di preoccuparsi delle donne di Tre Fornelli, si dovrebbe sì. preoccupare delle pubblicità inerenti tutti questi accessori femminili e farmaci femminili che rendono la donna, sinceramente, un po' decrepita. Cioè? Secondo me. Quindi tipo quella che entra in ascensore e che quell'altra gli sente, anche tu hai messo il pannolino che non puzzi d'urina, oppure quella. Io non ho mai vista questa pubblicità, dove cazzo l'hai vista questa sì. pubblicità? Cioè, la pubblicità di che cosa? Degli assorbenti? Che cos'è? C'è sta tizia che entra in ascensore, quell'altra annusa e dice: ah, anche tu oggi non puzzi più di piscio. Praticamente gli dice così. Beh, non dice proprio così, non credo che dica così. Comunque, no, non glielo dice. Ma che cos'è? Una marca di assorbenti? Cos'è? Sì, sono dei pannolini per le perdite. Vabbè, ma perché dovrebbe. Non suggerire alla Boldrini cose su cui intervenire, per carità. Un'altra cosa è questa che è stitica, che lancia tutto in aria, che ultimamente. Cioè. Voglio dire, il messaggio, voglio dire, la donna dei Tre Fornelli non penso che abbia questo grosso problema dal punto di vista dell'immagine. Sono peggio altri manifesti, Madonna, altre pubblicità. Ho capito. Paolo Milano, vai. Paolo, vai. Ciao, Luciano. Sì, Luciano è un aereo Moggi, però. Paolo. Oh. Paolo. Pronto? Dai, parla, forza. La donna dovrebbe ritornare a educare i figli, ma sì. non con un obbligo, deve avere una funzione sociale, quella che una volta avevano sì. Le madri, le nonne. Sì. La donna dovrebbe tornare dunque Una funzione sociale. Ad avere una funzione sociale, sì. Bene, Paolo. Ad avere anche una funzione, riconosciuta anche dallo Stato. Riconosciuta dallo Stato. Ma dunque, cosa vuol dire? Ma non ho capito cosa vuol dire. Cioè, dovrebbe vuol tornare dire? Dovrebbe lavorare meno, questo vuoi dire? Dovrebbe lavorare meno. Oh, abbiamo trovato una soluzione al problema dell'occupazione, al problema della disoccupazione. Bravo. Ah, bravo, cioè se le donne tornano a fare le casalinghe, bravo. Le mamme, eccetera, eccetera. Ma le casalinghe, perché non le casalinghe? Non mi capisco. Ma le casalinghe, o comunque le persone che si occupano dei figli, le mamme, come vuoi che ti dica, le mamme, eccetera, risolviamo di un botto. Non è che risolviamo, non è in un battibaleno il problema della disoccupazione. No, ma non fare. Ma no, è ma quello che hai detto tu. No, io non ho detto che risolvi. Beh, detto sì. Che è sicuramente. No, adesso non è. Non travisare, ma non sei un politico, posso anche travisare, cioè, no, puoi anche dirla chiara come la politico, pensi. Guarda, per me sono tutti uguali. Vabbè, con la cazzata delle 20:50 ci sentiamo domani, ciao. Ringatto che ormai è tutto finito. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Pippe, molte pippe. Radio 24. La passione si sente.